spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Sono le 8:14 del 7 agosto, buongiorno, non so cosa stiate facendo tutti voi, dove state andando guidando, lo dicono dalla regia, mi fanno il segno del volante, sì, ma non solo. C'è anche chi ci sta ascoltando dagli ospedali, ci ha scritto e questo ci fa particolare piacere. Cominciamo dunque con cosa potrete ascoltare, a spunti di vista di cosa parleremo nelle università italiane, dove i ricercatori fanno fatica, fuggono all'estero ogni giorno. Abbiamo un nuovo professore, Francesco Schettino, che insegna come gestire il panico. È l'ex comandante della Costa Concordia, anche se il titolo di comandante non gli è mai stato, non è mai stato messo in discussione. Bisogna certo ricordare che non è stato ancora condannato in via definitiva. Comunque è una saga tutta italiana che ci ha portato ancora una volta sulle prime pagine dei giornali internazionali. Schettino, imputato di omicidio colposo plurimo, ieri ci ha informato un primo lancio d'agenzia. Non volevamo nemmeno leggerlo, spunto di vista, pensavamo bello scherzo, ok, ma non è il primo aprile. Invece era vero, l'avete sentito, e ne discuteremo con il rettore dell'Ateneo, che adesso prende le distanze su quanto è accaduto, cioè la Sapienza di Roma, e il sindaco dell'isola del Giglio. A quando la lezione di Totò Riina sul funzionamento dello Stato? Questo è uno degli sms che ci arriva. Beh, certo, ci chiedete, ci chiedono, se non ci fossero state vittime, se vi fosse stata, diciamo così, solo una gaffe con danno patrimoniale, forse si riuscirebbe anche a sorridere di più. Comunque 349-238-6666, questo è il numero da comporre per i vostri sms, ne parleremo dalle 8:45. Prima andremo a parlare di Israele e Palestina, a chiederci ma se lo scopo dell'esercito, del governo israeliano, era indebolire Hamas, siamo sicuri che abbia colto nel segno? E poi ancora in Siria, due volontarie italiane infatti sono state rapite ad Aleppo e il loro volto, sembrano due bimbe, hanno 21 e 20 anni. Campeggia sulle pagine dei giornali, sono scomparse da 7 giorni. Si tratta di Vanessa Marzullo di Brembate, cioè in provincia di Bergamo, e la sua amica si chiama Greta Ramelli di Besozzo in provincia di Varese. Rappresentano il meglio dei ragazzi italiani, quelli impegnati in missioni umanitarie addirittura, anche se su questo ancora una volta un ascoltatore ha qualcosa da dire. Ma perché andare in Siria? Perché andare a aiutare lì quando c'è tanto bisogno anche in Italia? E come sempre, quando succede qualcosa, per tanti il primo impeto è il giudizio sulle scelte di vita altrui. Cercheremo di raccontare la situazione, il paese e in che scenario si sviluppa questo sequestro, possiamo chiamarlo sequestro. Ne discuteremo con i nostri ospiti alle 8:30. E ancora embrioni, ci sarà infatti l'udienza che dovrà decidere sulla dolorosissima vicenda degli embrioni scambiati. Di fronte a questo sono moltissime le domande che si pongono sul desiderio di genitorialità, perché non si può parlare, ci ha segnalato qualcuno molto sensibile, di diritto al figlio, ma di desiderio di genitorialità. Su tutti questi temi naturalmente siamo più interessati a sentire la vostra opinione che a darvi la nostra, e il numero da comporre per farlo, per discutere insieme, è l'800 24 00 24. Potete prenotare le vostre telefonate già da ora, messaggi sms in ogni momento, 349 238 6666. Visti da fuori. Dove andiamo oggi per discutere della nostra credibilità internazionale? Naturalmente, devo dire che questi incontri con i corrispondenti stranieri sono abbastanza confortanti, perché mentre noi amiamo dipingerci come un paese tutto ombra, tutto zone buie, in realtà ci arrivano anche dei feedback molto positivi da voi. Oggi andiamo a parlare con qualcuno che lavora

Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ancora buongiorno, sono le 8.31, al microfono Irene Zerbini. Oggi la Reuters ha più di 15.000 dipendenti in 91 paesi, è una delle maggiori agenzie di stampa del mondo, e con noi c'è anche James McKenzie, con il quale affronteremo alcuni aspetti sulla scelta lessicale così importante di Reuters per quello che riguarda l'uso di determinati termini in funzione dell'oggettività. Questo ha causato critiche soprattutto per il rifiuto da parte di Reuters di utilizzare la parola terrorista all'interno di servizi giornalistici su eventi importanti, a partire dall'attacco alle Torri Gemelle. Lo approfondiremo tra poco. Prima voglio salutare Alberto Negri. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Alberto Negri, editorialista del Sole 24 Ore, 35 anni di viaggi in Medio Oriente, e vogliamo scomodarti oggi proprio per concentrarci su diverse zone, ma partiamo da Aleppo, dalle due volontarie italiane che sono state rapite il 28 luglio in Siria. Ora, oggi hai parlato di una missione sempre più rischiosa, hai detto proprio nell'incipit del tuo articolo che nessuno avrebbe mai immaginato 3 anni fa, quando esplose la rivolta contro Bashar Assad, che Aleppo sarebbe diventato uno degli obiettivi strategici del nuovo califfato. Abu Bakr Baghdadi, il leader jihadista che sta costruendo uno stato islamico tra Siria e Iraq. Perché questo cambiamento così rapido nella storia di un paese così secolare? Ma innanzitutto il cambiamento è stato rapido, ma è durato 3 anni. 3 anni in cui, vorrei ricordare, ci sono stati oltre 160.000 morti e alcuni milioni di profughi, 3-4 i siriani che sono dovuti fuggire all'estero, 5-6 milioni i siriani che hanno dovuto cambiare casa all'interno, rifugiati interni, quindi una tragedia delle enormi dimensioni, una tragedia che sta sconvolgendo completamente un paese, per cui oggi non direi neanche più che si possa parlare di Siria, ma di ex Siria. Un paese di cui abbiamo documentato anche le rovine. Io ho visitato le città di Homs, interi quartieri cristiani rasi al suolo, Malula, altra città cristiana devastata, come sono stati devastati le periferie di Damasco che si opponevano a Bashar Assad. E oggi questo paese è, come dire, stritolato da una parte dall'avanzata jihadista del califfato di Baghdadi, dall'altra parte dalla resistenza comunque di un regime che forse trova proprio nell'avanzata dei jihadisti peggiori e più radicali proprio la sua ragione d'esistere. Certo, scrivevo anche oggi, c'è da chiedersi cosa sarebbe accaduto se l'anno scorso gli americani avessero bombardato la Siria. Forse il califfo Baghdadi sarebbe arrivato a Damasco, forse si sarebbero provocate altre migliaia di vittime senza risolvere alcunché in questo paese. Certo, nessuno qui in Occidente ha dato una risposta alla crisi siriana, come non ha dato una risposta alla crisi irachena, come forse non la sta dando neppure alla guerra di Gaza. Alberto Negri, l'America di Bush Junior voleva esportare la democrazia in Iraq, disse nel 2003 che lui avrebbe rifatto la mappa del Medio Oriente. Di questo progetto cos'è rimasto? Beh, dire nulla e dire poco è stato il contrario di questo progetto. Non solo non si è spostata la democrazia, ma l'Iraq come nazione si è inabissata in una guerra civile che ha preceduto ancora quella, l'avanzata del califfato di Baghdadi. Cioè, questo è un paese dove ogni anno si sono registrati comunque sempre migliaia di vittime nelle lotte tra i gruppi sunniti e quelli sciiti. È un paese che si è frammentato, a nord ormai è nato di fatto uno stato curdo che ha anche il petrolio, che ora cerca di difendersi appunto dalla guerra portata dal califfato. Ma praticamente in questo paese non si è realizzato nulla con la caduta del regime di Saddam Hussein, non solo, ma come è accaduto anche in altre aree del Medio Oriente, del mondo arabo, la caduta di questi regimi non è stata soltanto la fine politica di un dittatore, purtroppo è stata la distruzione di intere nazioni, degli stati, e oggi ci troviamo davanti a paesi che non hanno più nessun ordine, non hanno più neppure frontiere, confini, che si stanno inabissando sanguinosamente in un caos, in un'anarchia, a cui appunto noi non solo non abbiamo saputo rispondere, ma che abbiamo contribuito a creare. Chiarissimo. E ora veniamo alla vicenda delle nostre due connazionali. Sono moltissimi giudizi che ci arrivano via SMS al 349-238-6666 sulla loro scelta. Perché queste ragazze si trovavano in Siria? Va bene il volontariato, ci scrive un altro ascoltatore, ma andare in Siria a 20 anni con pochissima esperienza di vita e di attività in zone calde, che senso pratico può avere? Questa è avventura e non è buona volontà. E molti giudizi su questa falsa riga. Quindi, come abbiamo detto ancora una volta, le scelte prima, addirittura ci segnala qualcuno, è vero, le scelte sono le loro, visto che avevo annotato questa tendenza, questa propensione al giudizio che abbiamo sempre quando succede qualcosa, però poi quando i rapitori chiedono un riscatto dovremo pagare noi. Questo è un po' Alberto Negri, gli input che ci arrivano dagli ascoltatori. Che idea ti sei fatto sulla base della tua esperienza? Sapevamo che queste due ragazze erano tra l'altro insieme a due siriani che avrebbero dovuto proteggerle. Dunque, chiedete forse alla persona più sbagliata di dare un giudizio, un'opinione su una vicenda di questo genere. Io a 23 anni sono partito dall'Italia per andare in Iran a vedere la rivoluzione islamica, la rivoluzione di Khomeini. Avevo appunto 23 anni. Ma come giornalista? No, non sono andato come giornalista, sono andato semplicemente come viaggiatore. Ero incuriosito. Era chiaro, era una rivoluzione, era qualcosa che attirava un giovane che aveva sempre sentito parlare di rivoluzione e ne voleva vedere una. È chiaro che anch'io ieri, quando ho visto la notizia, sono sobbalzato sulla sedia e mi sono detto: ma come mai queste due giovani ragazze sono passate dall'altra parte in una zona pericolosissima e non le hanno fermate, non le hanno consigliate? Come mai sono andate dall'altra parte? È certamente un azzardo, è certamente un grande rischio che ovviamente sconsiglio a chiunque. Però proprio in funzione del ragionamento che facevo prima e dicevo: ma cosa abbiamo fatto noi per questi popoli, per questa gente? Queste ragazze hanno in qualche modo cercato di fare qualcosa, forse l'hanno fatto nel modo sbagliato, forse hanno scelto una strada troppo rischiosa, si poteva anche non andare dall'altra parte e trovare magari il canale per poter aiutare queste persone ugualmente, facciamolo. Però attenzione, prima di emettere i giudizi, stando a casa, seduti comodamente nel proprio salotto. E quindi condividi, capisci e mi sembra di capire anche stimi per quanto ti abbia suscitato, adesso che sei più maturo, forse anche da padre, delle perplessità, delle domande, però attenzione, non si può non condividere, non comprendere questa voglia di partecipare, di fare qualcosa, di dare un contributo. Però dicevamo, dovevano essere queste due ragazze, si chiamano, vale la pena ricordarlo, Vanessa e Greta Marzullo, di Brembate, la prima, cioè in provincia di Bergamo, e la seconda in provincia di Varese, dovevano essere protette, nel senso che c'erano con loro, in questa organizzazione umanitaria in cui operavano, anche dei siriani che avrebbero dovuto garantire la loro incolumità. Ma tu scrivi, Alberto Negri, qui nessuno può garantire niente a nessuno, la situazione è questa. Ma perché? Come interpretare il fatto che i siriani siano stati poi liberati a una ventina di chilometri dall'area del rapimento? Le ragazze sono state rapite in quanto italiane, ovviamente. Allora, intanto facciamo un passo precedente al loro ingresso in Siria. Per entrare in Siria non è che si vola, per entrare in Siria bisogna attraversare una frontiera, che è la frontiera turca, giusto? Sì. Innanzitutto in Siria per entrare ci dovrebbe un visto, ma naturalmente le autorità centrali lì non ci sono più per farlo rispettare, però ci sono le autorità turche, cari signori, che dovrebbero controllare il confine. Come mai le autorità turche fanno passare queste persone? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare dall'inizio di questa vicenda siriana, perché migliaia e migliaia di combattenti che hanno appunto combattuto contro Bashar Assad, e qui non sto esprimendo un giudizio sia giusto o meno combattere Bashar Assad, sono passate dal confine della Turchia senza che non solo la Turchia facesse nulla, ma facilitasse l'ingresso di questi gruppi armati. E allora io mi domando come mai i turchi hanno fatto passare due giovani ragazze italiane, europee, dall'altra parte, sapendo perfettamente probabilmente cosa andassero a fare. Questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare. Poi naturalmente quando si entra in Siria, signori, io la Siria l'ho attraversata, è chiaramente un paese in guerra, e avranno avuto ovviamente dei contatti con la guerriglia, con l'opposizione, ci sono dei gruppi più o meno affidabili che si offrono magari per dare protezione, per dare aiuto, ma chi ci garantisce qualche cosa in una situazione di questo genere? Abbiamo già visto purtroppo altre vicende tragiche, abbiamo visto la vicenda di Domenico Quirico che aveva passato il confine tra Libano e la Siria, che cos'è stato la vicenda? Abbiamo visto il rapimento di Padre Dall'Olio che addirittura si era recato a Raqqa per parlare con i jihadisti, cioè con gli islamisti più radicali, per vedere se era possibile in qualche modo riannodare un dialogo. Bene, purtroppo queste persone sono finite rapite, qualcuno è tornato indietro, Padre Dall'Olio non lo è più. Questo ci dice tutta la pericolosità della situazione. Però attenzione, ritorno al discorso di prima. Sono passate da una frontiera dove probabilmente, se ci fossero stati dei controlli, fossero fatti, probabilmente non avrebbero dovuto mai passare. Ed essere sequestrati significa entrare in un tunnel, perché si perde ogni speranza, sono vite sospese in cui l'attesa stessa è una tortura, e ce l'ha raccontato benissimo Quirico anche stamattina, lo sottolinei tu nel tuo pezzo. Ti dicono tra l'altro, Alberto Negri, che è bellissimo il tuo commento su Vanessa e Greta di fronte al cinico egoismo di altri, questo ce lo segnala Max e gli ascoltatori che stanno seguendo con attenzione quello che ci hai raccontato, e naturalmente nel corso dei prossimi giorni daremo aggiornamenti continui su quanto, speriamo, su nuove e buone notizie che possano arrivare dalla Siria. Grazie a Alberto Negri per il tuo tempo. Voglio concludere anche con James McKenzie, perché abbiamo parlato all'inizio proprio della scelta di Reuters di non utilizzare il termine terroristi per le vicende che mandate ai giornali dalle aree medio orientali. Ciò che per un uomo è un terrorista, per un altro uomo è un combattente per la libertà. E Reuters, era stato scritto dai tempi delle Torre Gemelle, non usa la parola terrorista per principio, e questo vi ha causato non pochi problemi anche con altre testate che si avvalgono del vostro servizio e del vostro dei vostri, una volta si chiamavano dispacci, diciamo così, lanci. James McKenzie, è una politica interna che Reuters continua a portare avanti? Sì, ma infatti è un ma non credo che siamo lì soli con questa politica, perché credo che anche le altre grandi agenzie, giornali, media vari provano a non utilizzare termini come terrorista, perché ovviamente, come dici tu, il terrorista per uno e il combattente di libertà per l'altro. Ho letto il comunicato di Reuters, in realtà tanti giornali, anche il National Post di Toronto, il Calgary Herald, tanti giornali in giro per il mondo sostituivano regolarmente nei vostri dispacci la parola che voi mettevate con la parola terrorista, e vi hanno tacciato di politically correctness. Beh, è vero che al momento dei Torri Gemelli c'era un po' di discussioni su questa cosa. Credo che normalmente adesso basta guardare quello che succede nel Medio Oriente per capire che infatti se tu dici che uno è un terrorista così, tu come agenzia. Questo è già un giudizio sul, sulla storia, su tutta la vicenda. Dunque, così ti metti su una parte e vieni meno al tuo compito. Già è molto difficile di essere obiettivi, perfettamente obiettivi. Utilizzando un termine così rende il compito più o meno impossibile. James McKenzie, corrispondente da Roma per Reuters, grazie, naturalmente ci sentiremo in futuro. Ci fermiamo per questa parte, anche Reuters ha scritto di un'altra vicenda che arriva dall'Italia che andremo a affrontare tra poco, ed è la vicenda del comandante Schettino. Salito in cattedra? No, perché non è stata una lectio magistralis come era stato reso noto in un primo tempo, ma comunque che ha fatto il suo ingresso, ha partecipato a una sorta di seminario dell'Università La Sapienza. Con noi il rettore della Sapienza, che saluto, buongiorno, Luigi Frati. Buongiorno. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E mi ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Faccio passare l'anima di guai. Vado a bordo, cazzo. Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Fa venire i brividi. Fa venire i brividi ascoltare e riascoltare questa voce, questo scambio tra la capitaneria di porto e il comandante Schettino. La notte al centro delle vicende di cui parliamo. Guardi, lei si sarà salvato, ma le assicuro, gli diceva Gregorio De Falco, che poi non riusciva nemmeno a chiaramente a formulare una minaccia, cosa voleva essere. Succede però in Italia anche questo. Succede che il comandante, che non è stato ancora condannato in via definitiva, e lo ribadiamo, ha un incontro seminariale all'interno di una delle maggiori e più prestigiose università italiane, La Sapienza. Rettore, buongiorno. Com'è stato possibile? Ma guardi, intanto l'articolo 33 della Costituzione garantisce ai professori libertà di insegnamento, quindi non facciamo una censura preventiva, e quindi nell'ambito di un master il professor Mastronardi di criminologia forense, quindi fra l'altro di grande importanza per questo tipo, ha inteso invitare sulla questione del panico il signor Schettino. Invito assolutamente inopportuno per una serie di motivi. Primo, c'è un procedimento penale in corso e ci vuole un rispetto della magistratura. La seconda, contravvenuta ad una delle regole fondamentali dell'università, cioè si invitano le persone ma in contraddittorio, cioè vuoi invitare Schettino, benissimo, allora invita anche qualcuno che stava che mentre lui stava a terra stava nella nave in pericolo di vita, o un parente di qualcuno che è morto là dentro, perché non è possibile offrire un palcoscenico ad una persona alla quale leggendo i capi di accusa dei rinvii a giudizio, le accuse sono talmente gravi che non si può dargli un palcoscenico per rinforzare, diciamo, la sua tesi o la sua difesa, quello ma che voi vuole. Come università, rettore, ora cosa avete fatto? Qual è stato passo successivo? Fra l'altro lei sa che il tutto è venuto fuori per un benemerito cronista locale di Grosseto. Io fra l'altro sono senese grossetano, ho studiato alla scuola media la stessa cosa di questa, il quale probabilmente aveva raccolto voci locali che si stava organizzando la difesa di Schettino utilizzando questa strumentalmente questa partecipazione online ad un corso. Bene, io immediatamente non è stata online. Quello poi vedremo, perché lì poi mi hanno detto che era online, vedremo se era presente. Fra l'altro c'è un video nel quale si vedono avvocati, consulenti e qualche altra cosa. Allora io ieri ho raccolto tutti gli elementi che avevo, ivi comprese le email di protesta degli studenti e le email poi che hanno dato forza al rettore dicendo fai bene a protestare immediatamente con la violenza con cui ha protestato, e ha aperto immediatamente un procedimento al comitato etico e disciplinare, per cui il professor Mastronardi risponderà di quello che ha fatto. Se vuole le dico anche i quattro elementi di accusa, ma non credo che interessino più di tanto ai quindi lei, no, beh, adesso lo vedremo insieme. Lei ha deferito, diciamo così, il professore di fronte al comitato bioetico, ha sottolineato giustamente l'autonomia, una delle caratteristiche fondanti degli atenei, dei professori. Non ci poteva essere censura preventiva, certo. O lei proprio non era al corrente, cioè se lei l'avesse saputo? Non ero minimamente al corrente. Io l'ho appreso dal cronista della Nazione di Grosseto, il quale lo ha pubblicato e poi mi ha anche telefonato e mi ha spiegato i dettagli di questo tipo. Quindi era la sapienza a 4.000 professori e tanti altri persone che fanno questo tipo, lei capisce che è anche tecnicamente possibile, al di là del dettato costituzionale sull'autonomia concessa ai professori, poi è tecnicamente possibile fare qualcosa. Chi non ne sapeva assolutamente nulla l'ho appreso dai giornali, esattamente come voi. Quindi secondo lei questo è successo alla Sapienza, ma se Mastronardi avesse insegnato altrove poteva sfuggire così anche a un rettore altrove? Assolutamente, il problema è che l'autonomia è un'autonomia costituzionalmente garantita, ma c'è anche una responsabilità sociale. Io potrei fare un altro esempio: una volta un professore di lettere, questa volta me lo chiese, voleva invitare uno dei brigatisti che non so se ho sentito prima con Reuters, io ho seguito a usare il termine brigatista, che aveva trucidato la scorta di Moro, voleva fare una lezione all'università sulle brigate rosse, il pentitismo e quant'altro. Io scrissi: benissimo, lo fai, però in via Fani, io vengo con la sedia, voglio sapere che cosa pensavi mentre ammazzavi 5 persone innocenti che facevano la scorta a Moro. Fra l'altro Mario Fani è un pedagogista, ironicamente, quindi vengo lì e naturalmente il seminario non si tenne. Noi ci segnalano gli ascoltatori, abbiamo visto la Sapienza anche al centro di polemiche piuttosto accese nel 2009 in occasione della visita di Gheddafi. In questo caso l'ha accolto lei, Gheddafi. Quella di Gheddafi era una visita di Stato alla quale non ci siamo potuti sottrarre, cioè una visita di Stato, vado al Presidente della Repubblica, chiese di fare una lezione, fra l'altro al 45 minuti di prammatica io l'ho interrotto e ho fatto fare domande agli studenti, domande diciamo fra l'altro osermo dire diremmo cattive, nel senso sui respingimenti, sul che cosa le donne, come sono considerate in quel mondo, diciamo le donne, se possono fare solo i soldati o possono diventare Presidente Repubblica, quindi gli studenti non risparmiarono nulla, Gheddafi. Rimanga con noi il rettore, sentiamo anche gli ascoltatori. 800 24 00 24, pronto, buongiorno, libero. Ah, buongiorno. Buongiorno, dica. Io faccio parte di quel mondo di indignati che c'è dell'Italia e per quello che è successo alla Sapienza. Io dico che quel professore voleva provocare... Libero, un attimo, mi ascolti? Può spegnere la radio? C'è un ritorno terribile. Ah, sì, sì. Grazie, ci può ascoltare tanto attraverso il telefono. Sì, sì, sì. Dica, ma lei è un comandante? Sì, io sono comandante diportista di barca, io ho un motoscafo d'altura, a Cesenatico, e le dirò che il mio senso di responsabilità è al punto che quando a bordo ho della gente che va a fare il bagno, io sto a bordo a controllare la situazione senza immergermi in acqua minimamente, ha capito? Dunque, cioè lei dice anche in scala ridotta il comandante ha delle responsabilità, certo, che deve avere ben presente sempre. Ma civili e penali, anche uno si, cadendo dal pulpito della scaletta si fa male a bordo, uno è responsabile di fronte alla capitaneria. Libero, ma lei si sentirebbe di rispondere a una domanda, cioè sa per certezza cosa avrebbe fatto quella notte al posto di Schettino? Guardi, il mio senso di responsabilità umana, sociale, al di là di quella, oltre che quella professionale e etica di un comandante, non sarei mai sceso dalla nave. E comunque, dirò in modo sarcastico e ironico, che penso proprio che Schettino fosse la persona giusta per fare quella lezione, dove lui insegna come gestire il panico. Cioè quella di scappare via, di salvare la propria vita. Fra l'altro la nave non si stava inabissando, era già calata su una fiancata, ha capito? Quindi le dirò adesso modestamente che quando c'è stato un pericolo in alto mare, in alto mare sull'Adriatico, su una motonave turistica, io mi sono stato uno di quei deportisti che sono andato incontro a quella nave, siamo arrivati ancora prima della capitaneria, capito? Capito benissimo, però... grazie Libero, grazie per questa testimonianza, tra l'altro di una persona che ha la stessa professione, sa di cosa parla, diciamo così, come sa di cosa parla Gregorio De Falco, l'abbiamo sentito, capitaneria di Porto, è la famosa voce che avete udito così tante volte in quel video in cui si invitava Schettino a tornare a bordo. Ebbene, ieri ci siamo detti, se lo invitiamo in trasmissione, Gregorio De Falco rifiuterà, proprio per senso del pudore, perché è il contrario della volontà di spettacolarizzazione. È andata così. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Nove e cinque, ritorniamo insieme, sono moltissimi i vostri messaggi sulla vicenda di Schettino, lezio magistrali del comandante alla Costa Concordia alla Sapienza. No, non è stata, ha precisato l'avvocato, non è stata una lezione, ma... si è limitato a commentare un video sul naufragio della Costa Concordia. Vabbè, allora, questo ce lo ha riferito Cataldo Calabretta, avvocato civilista di Francesco Schettino, che ha precisato in che cosa è consistito il suo intervento. Però sono moltissime i messaggi che ci arrivano al 349-238-6666 di persone indignate per quanto accaduto. Ma perché solo in Italia possiamo avere questo dispregio delle vittime? E cosa succederà a Schettino? Abbiamo sentito il rettore della Sapienza, ci ha informato di aver deferito il professor Mastronardi, che ha invitato Schettino a tenere un seminario nell'ambito di un master di cui è direttore, è stato deferito al comitato etico perché ne valuti i profili anche ai fini disciplinari. Dunque, cosa succederà a Schettino lo deciderà la magistratura, quello che succederà al professore lo deciderà questo comitato etico. Rettore Luigi Frati è con noi? Pronto? Sono molto scettici i nostri ascoltatori, ci dicono non gli succederà niente, come sempre. Non è vero, perché il comitato etico e il comitato disciplinare nostro valuta e condanna. Tra l'altro la richiesta di sanzione la deve fare il rettore, che quindi io dati già gli elementi ritengo di averne a sufficienza per potere poi, quando naturalmente con le procedure e con le garanzie che ogni procedura richiede, però non è... Sapete che, come l'ho saputo, in 24 ore già è successo il deferimento, cosa io avevo 30 giorni per farlo, l'ho fatto in meno di 12 ore. Ma lei, rettore, cosa si sente di rispondere a tutti questi ascoltatori che ci stanno scrivendo? Sono anch'io indignato. Perché una comunità educante come quella della Sapienza, la prima università d'Italia nei ranking internazionali, non può permettere, in nome della libertà e della cultura, di avere persone di questo tipo, e neanche il contraddittorio. Perché avrei ancora capito, invito Schettino e qualcuno che stava nella nave a dire a Schettino sei scappato mentre noi stavamo affondando. E allora il gestore del panico di chi? Di Schettino che se n'è andato? O di quelli che stavano a bordo? Sì, ma quali la gente indignata si fa. Professor Frati, forse anche con la presenza del contraddittorio, comunque la partecipazione sarebbe stata tacciata così di volontà di spettacolarizzazione. Questa è la sensazione che c'è. E l'ha segnalato anche il ministro dell'università, è sconcertante, perché anche ci fosse stato un rappresentante, secondo me si sarebbero sottratti da questo tipo di invito, dei familiari, dei naufraghi, dei familiari delle vittime, e comunque già il fatto che Francesco Schettino, tra i tanti che si possono invitare in Italia sulla gestione del panico, sia varchi la soglia dell'università, anche se per parlare della biografia dei suoi primi 5 anni, ha qualcosa di inquietante. Giuseppe da Ascoli Piceno, pronto, buongiorno. Buongiorno. Niente, premesso che faccio parte degli indignati, però voglio dire anche che questo è un'abitudine prettamente italiana, perché tantissime volte nelle università, nelle televisioni pubbliche e private vengono ospitati personaggi così, la stessa università ha ospitato brigadisti per presentazione di libri, c'è stato nel calcio, dopo i vari scandali, ospite d'onore spesso è stato il condannato Moggi. Abbiamo testate giornalistiche dove scrive Adriano Sofri, per carità, se Sofri scrivesse un libro io me lo compro se voglio, ma io sono costretto a comprare un giornale e leggere le parole di uno condannato per omicidio che fa l'opinionista. E quando entrano nelle varie sale... Mi scusi adesso, non è che... Cioè questi accostamenti però, facciamo un attimo attenzione, sono condannati e c'è chi ha scontato 22 anni di galera, ha rifiutato la grazia. E allora Schettino ancora non è stato condannato. Allora assolutamente, questo noi l'abbiamo detto prima, non è stato condannato in via definitiva. L'Italia. Ma io non capisco accostamenti tra persone che, come dire... pagano il pegno per quello che hanno fatto, si assumono le responsabilità e ne vanno avanti con una linea di coerenza. Maggior parte sono semplicemente condannati e si ritengono innocenti. Ma al di là dei nomi, voglio dire, è un'abitudine italiana chiamare. Come fa ad accostare le vicende di Sofri, di Moggi, di Schettino come fosse tutto un calderone? No, non è la stessa cosa. Non voglio semplicemente. Ci stavamo interrogando sull'opportunità di invitare un personaggio del genere a gestire un seminario sul panico. Posso dire la cosa, forse, Giuseppe, posso dire una cosa, forse la cosa più che ancora non è stata detta, ma poteva anche rifiutare, tra l'altro, no? Cioè, questa sottolineatura ci ha abituato a selfie con le ammiratrici, ci ha abituato a cose di questo genere. In rispetto dei familiari delle vittime, uno può anche fare un passo indietro senza che nessuno glielo richieda. Lo stesso, lo ripetiamo, capitano Gregorio De Falco della Capitaneria di Porto di Livorno, per esempio, e non ha nulla da temere, non ha voluto nemmeno partecipare a questa trasmissione, proprio così, come pudore, per rispetto del proprio ruolo e di quanto sta succedendo alle vittime. Pensate alle famiglie di chi si vede preso in giro in questo modo, al di là poi delle responsabilità accertate o presunte in sede giudiziaria. Silvano, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Dica. Semplicemente, dopo profonde riflessioni tecniche, sì, io promuoverei il comandante Schettino a vice scafista, cioè quegli scafisti che portano i barconi vicino alla costa con vivi o morti dentro e poi li abbandonano, che si arrangino. Cioè lei accosta la situazione, la personalità di Schettino, e per lei è una promozione, lei dice. È molto polemico Silvano, che ha contribuito, come potete farlo voi naturalmente, all'800240024. Ma ci si chiede che tipo di ricaduta abbia anche e sull'immagine del paese, ne ha parlato anche Reuters, abbiamo avuto ospite il corrispondente da Roma, non l'ha fatto lui l'articolo, James McKenzie, ma un suo collega mi segnalava ieri, è un'altra di quelle notizie che rimbalza un po' in giro per il mondo. Ci sono ragioni anche di opportunità, anche prima che un giudice si pronunci, anche prima che ci sia una sentenza, anche prima, ci sono ragioni di buon gusto e di rispetto. Sergio Ortelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Sergio Ortelli è il sindaco dell'Isola del Giglio. Lei che giudizio si è fatto di tutta questa ennesima pagina, ennesimo epilogo di questo dramma? Beh, un giudizio estremamente negativo, devo dire, dopo tutto quello che abbiamo patito in questi ultimi 31 mesi. Oggi ho sentito parlare di brividi, di indignazione, di sconcerto. Io sono perfettamente in linea con gli interventi degli ascoltatori e anche con l'intervento del rettore. Credo che il fatto gravissimo, che peraltro ho appreso dai giornali, solo dai giornali sono riuscito a leggere che cosa era accaduto, credo che questo fatto rappresenti un'ulteriore ferita inferta ai familiari delle vittime, con cui peraltro sono ancora in contatto, ancora oggi io mi sento con alcuni dei familiari. Ricordo che in queste ore proprio su Genova è in corso la ricerca dell'ultima vittima, il fratello di Kevin, Raffaele Revello. Sì. E questi fatti, i fatti che sono accaduti, alimentano solo e solamente l'indignazione di tutti noi, anche se non abbiamo mai perso la speranza che qualcuno un giorno possa ravvedersi o pentirsi. Ma i familiari delle vittime sono tornati al Giglio? Sì, sì, sono tornati anche recentemente nell'occasione del refloating, sono tornati Lelio Vincenzi, marito della Maria Grazia Tricarico, sono tornati i francesi, io li ho incontrati ancora una volta, insomma si è stabilita anche una sorta di amicizia e di affetto con loro, quindi credo che su questi fatti loro l'indignazione sia una parola che ancora non rende bene l'idea. Sulla vicenda devo dire che bene ha fatto il rettore della Sapienza nel dare una pronta, una ferma risposta nel deferire il professore che è stato appunto protagonista di questa vicenda, anche di fronte a un atto di profonda e inaudita irresponsabilità. Questo è il mio punto di vista, naturalmente. Mi domando proprio quali potevano essere i svolti educativi o formativi prodotti dall'esperienza di colui che rappresenta l'imputato di un processo penale, di una storia che noi conosciamo e di cui noi ne conosciamo i particolari, soprattutto ne conosciamo gli elementi di come si sono svolti i fatti, perlomeno noi che li abbiamo vissuti in prima persona. Io credo proprio che non ci sia una ragione scientifica, non c'è proprio, non c'è una ragione didattica che possano giustificare un'iniziativa del genere, che peraltro da tutti è stata definita fin dall'inizio un atto, l'ho sentito anche dagli ascoltatori e dallo stesso rettore, un atto da condannare in modo netto. E forse è stata la ricerca di quel quarto d'ora di celebrità, di un seminario su cui puntare il riflettore anche dalla stampa, e questo ha avuto probabilmente la prevalenza rispetto alla libertà accademica e anche alla dignità accademica. Chissà cosa ha mosso. Quello che è certo, come ci segnalava lei, sindaco, è che è una vicenda che ha riaperto delle ferite profonde, soprattutto tra i familiari dei naufraghi che ancora tornano all'isola del Giglio. Cosa le dicono? Cosa le hanno raccontato in questi anni? Lei li ha visti recentemente nel periodo del rigalleggiamento della Concordia? Ma intanto non raccontano davvero i minuti, le ore di quella terribile notte, quindi vengono per ritrovare i Gigliesi, per cui è un atto, devo dire, molto importante, perché vogliono ritrovare i luoghi della solidarietà, dell'ospitalità, dell'accoglienza. Quindi credo che, riallacciandomi un po' al fatto che è accaduto ieri, diciamo che il fatto non è accaduto ieri lo abbiamo letto dai giornali, forse la lezio magistralis doveva essere tenuta dai Gigliesi, non tanto dal comandante Schettino. Credo che questo fosse un'inversione di ruolo che ha causato poi tutta l'indignazione che ancora oggi portiamo dentro, anche perché, ripeto, i familiari guardano al Giglio come sì un luogo di solidarietà, ma anche un luogo dove si sono salvate molte persone, un luogo dove forse il bilancio delle vittime, nonostante loro sono i primi colpiti da questa tragedia, poteva essere questo bilancio sicuramente molto più alto, molto più elevato. E non è davvero il signor Schettino che ha portato la nave in quella posizione, non è davvero l'abilità di un comandante che può aver portato la nave nell'unica posizione in cui si poteva porre, nell'unica posizione in cui si poteva incagliare, e quella posizione è stata una posizione che io ho definito miracolosa, perché ha tenuto molto basso il bilancio delle vittime. Grazie ancora per questa sua testimonianza. Sergio Ortelli è il sindaco dell'Isola del Giglio. Cambiamo pagina alle 9:18, ringraziamo naturalmente tutti i nostri ospiti, il rettore della Sapienza di Roma e non solo il sindaco dell'Isola del Giglio, ma soprattutto voi che ci avete chiamato, che avete partecipato con le vostre testimonianze anche a commento di quest'ultima pagina relativa alla Costa Concordia. Non è l'ultima. Probabilmente staremo a vedere, vi informeremo anche sull'esito di quel deferimento di fronte al comitato etico, perché ne valuti i profili anche ai fini disciplinari, del professor Mastronardi. Noi ora ci occupiamo però della vicenda degli embrioni scambiati, un'altra vicenda che, come tutte quelle che toccano da vicino persone, famiglie, bambini, genitori, potenziali genitori, naturalmente è molto delicata, e ci si interroga su che frontiera abbia raggiunto ormai la genitorialità. Domani un giudice dovrà emettere una sentenza, addirittura, non vorrei trovarmi nei panni di questa persona. C'è una signora che sta portando avanti la gravidanza, il bambino, i bambini, anzi, perché sono due gemelli, nasceranno da qui a breve, e intanto sui giornali c'è chi sostiene che la gravidanza sì è importante, ma quei bimbi appartengono soltanto ai genitori biologici, e anche l'utilizzo di certi verbi è da brivido, l'appartenenza. E c'è chi invece dice: attenzione, il DNA non è tutto, perché anche nella placenta avvengono sviluppi fondamentali, anche questo porta ha un diritto da parte della coppia che sta portando avanti la gravidanza al riconoscimento dei figli. Ma soprattutto c'è la voce di chi dice: gli adulti comunque se la caveranno, in fondo sono sostenuti e da una parte e dall'altra. È ai bambini che bisogna pensare, che sarà di loro. E lo chiediamo a Gustavo Pietropoli Charmé. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno, grazie. Lei, professore, è uno psichiatra, è uno psicoterapeuta, tra l'altro è direttore scientifico del Festival della Mente di Sarzana, dove ci sono sempre tanti spunti, tante idee. Arriverà il momento in cui questi bambini non solo saranno nati, ma insomma cresceranno. E lei teme proprio questo loro diventare grandi, con tanti interrogativi. Cosa ha previsto? Ma lo temo e lo spero, nel senso che glielo auguro di cuore di diventare grandi, bene grandi, cioè consapevoli, maturi, pronti a interrogare i loro genitori, qualsiasi sia la coppia alle quali verranno affidati, per chiedere lumi attorno a uno dei segreti, a uno dei misteri che ogni adolescente vuole risolvere, cioè perché sono nati, perché sono stati messi al mondo, perché si trovano lì, come mai quei due adulti lì vogliono comandarli, dargli le regole, eccetera, eccetera. Ecco, io penso. Quindi una fase che ci sarebbe comunque. Una fase che c'è comunque, naturalmente. Quando la situazione è un po' ingarbugliata, allora l'adolescente che è portato di natura sua a voler svelare i segreti degli adulti si impegna ancora più, no? Per riuscire a capire di che cosa si tratta. Ora qua la situazione è veramente ingarbugliata, per cui per forza di cose, per cercare di orientarsi, viene di ricorrere alle situazioni in cui si trovano altri bambini, non una situazione così rocambolesca da un punto di vista tecnologico e genetico, ma perché la storia della loro vita è quella, e cioè sono stati allontanati dalla famiglia naturale, diciamo biologica, e sono stati affidati dal tribunale, come potrebbe succedere domani a Roma, a un'altra famiglia, la famiglia affidataria, a patto che la famiglia affidataria sappia mantenere dei buoni rapporti con la famiglia naturale, di modo che il bambino sa benissimo che ha, come dire, due famiglie, una famiglia naturale che è naturale ma che è inadeguata da un punto di vista educativo, almeno il giudice ha decretato così, e la famiglia affidataria che li accompagna, li aiuta a crescere, eccetera, eccetera. Professore, allora, la fermo subito. Dunque, questa è la strada che lei si augurerebbe, dice, forse la migliore che si può immaginare? No, è una situazione naturalmente ricca di conflitti, di problemi, eccetera, perché due coppie di genitori che lo sono, no? Una perché da un punto di vista etico, affettivo, simbolico, ma anche istituzionale, cioè il tribunale li ha affidati a loro, e l'altra col diritto naturale. Ora in Italia, mi sembra, non sono un giurista, però è da tanti anni che mi trovo coinvolto in questa faccenda dell'affidamento dei minori, chi ne ha diritto, chi non ha diritto, a me sembra che tutti i diritti li abbia il bambino e che il diritto dei genitori sia molto poco difeso, tant'è vero che i bambini possono essere allontanati dai genitori naturali se il tribunale ritiene che i genitori non siano adeguati all'altezza del compito educativo. Allora, questo fa sì che effettivamente sia piuttosto frequente che i bambini si trovino a vivere una situazione in cui sono, quando sono un po' più grandi, perché quando sono piccoli ovviamente la situazione è più complicata, è coperta, eccetera. Di interrogativi, di domande. Sì, una situazione, chi siete voi per darmi ordini, per esempio? Sì, esattamente, questo lo direbbe qualsiasi adolescente, ma l'adolescente adottato che dice: scusa, ma voi siete abusivi, perché i miei veri genitori sarebbero se sono un adottato, quelli che sono spariti da circolazione non si sa più dove siano, però quelli sarebbero i miei veri genitori, quelli naturali, che magari sono poveri e per salvarmi la vita mi hanno messo in un posto dove poi venivano delle altre signore, prendevano il bambino, eccetera, eccetera. Se sono un bambino affidato a un'altra famiglia, so benissimo che fuori dalla porta c'è la mamma e c'è il papà naturale, che sono tutt'altro che d'accordo in genere con quello che ha deciso il giudice, come d'altra parte succede in occasione di tantissime separazioni coniugali, dove il bambino viene affidato a uno, viene affidato all'altro, ma quell'altro non è mai d'accordo su quello che Senta, decide. Professor Charmé, certo, precisiamo anche che non va sempre così, no? Visto che sono moltissimi gli italiani in procinto di adozione e quindi cominciano a percorrere quella sorta di strada senza fine, che sono le valutazioni, gli assessment, cioè non è che sempre i bambini adottati poi si trovano a farsi interrogativi o a ribellarsi verso chi li ha accuditi e cresciuti, assolutamente, però a volte sorgono questi interrogativi, questi conflitti, a volte si ricompongono nella maggior parte dei casi. Rimanga con noi, professore, ma adesso vogliamo sentire anche altre voci. 800 24 00 24, ci si chiedeva però come così, come pronunciarsi in maniera definitiva in una vicenda di questo genere? Lo voglio chiedere anche a un genetista, al genetista forse più famoso del mondo, del genetista italiano Edoardo Boncinelli, e oggi è nostro ospite. Grazie per aver accettato di parlare con noi. Non abbiamo idea di come lei la pensi su questa vicenda, quindi ci dica, è possibile oggi stabilire una predominanza di chi ha dato il DNA, una predominanza di chi ha portato a termine la gestazione? Ci deve essere conflitto per forza? Guardi, io non vorrei essere quel giudice. D'altra parte lo scienziato non è qua per decidere che cosa è giusto, lo sanno i preti e i magistrati. Lo scienziato dice come sanno le cose. Quei bambini assomiglieranno prevalentemente ai genitori naturali, naturalmente appena nati, perché se poi li guardiamo tra 20 anni o tra 40 anni dipenderà molto in che famiglia saranno cresciuti. Siccome però ancora non sono nati, appena nati somiglieranno moltissimo ai genitori naturali, perché il DNA è loro. La situazione è ingarbugliata e, diciamo la verità, pure incresciosa, perché questi errori sì, non si devono fare. Questo va sottolineato, non è un errore da poco, questo dell'ospedale Pertini è terribile, ha gettato nel panico anche migliaia di altre coppie. Devo dire che come italiano mi sento un pochettino colpito da queste cose. D'altra parte la loro situazione non è diversa, come già ha detto il precedente oratore, da un'adozione, e soprattutto non è diversa da coppie che si sono separate, mischiate e hanno figli. Quindi il problema dei bambini è sempre quello di orientarsi fra quattro, tre genitori e di vedere a quale dare retta, ma soprattutto a quale affezionarsi. Quindi il problema scientifico è chiaro e non c'è discussione. Il problema umano invece, come tutti i problemi umani, è aperto e potrebbe essere risolto, ma lo dico quasi a mo' di battuta, istituendo una nuova entità che sarebbe la famiglia quadrigenitoriale. Quindi ci sembra di capire che anche lei, professor Boncinelli, si augura la presenza o la vicinanza di tutti i soggetti adulti coinvolti in questa vicenda nella vita dei bambini. Laura, buongiorno, pronto? Pronto, Laura? Pronto? Sì. Pronto, mi sente? La sento. Bene. Da dove chiama innanzitutto? Io chiamo da Genova. Bene. E volevo solo fare una piccola... È chiaro che questa situazione è una situazione molto particolare, che grave. Beh, unica, possiamo dirlo. Assolutamente. Io però ho adottato un bambino straniero che viene dall'Africa, che aveva 6 anni, e devo dire che la genetica, la biologia c'entra tutto, però poi il genitore diventa tanto quando a un bambino ci pensa tutti i giorni, lo sveglia, lo accudisce, è lì quando ha bisogno dell'amore, della sgridata e tutto. Quindi è vero che i genitori biologici, però in tante situazioni si diventa genitori non solo perché si è partorito un bambino, ma perché si accudisce, si pensa e si ama un bambino a prescindere. E a volte ci si dimentica un po' e si dà molta importanza alla biologia, alla genetica e un po' meno all'amore, perché ci sono tanti genitori biologici che non sono in grado di fare i genitori e che fanno i figli un po' per incoscienza, un po' per ignoranza. Vabbè, questo non è il caso delle coppie coinvolte, nel senso che l'incoscienza sicuramente non c'è. Un processo anche, lo ricordiamo, abbastanza tribolato, quello, come ben sapete, della fecondazione artificiale. C'è stata questa infermiera che nel dicembre del Pertini, l'ospedale Pertini, nel dicembre del 2013 ha scambiato le provette di due coppie tra le sei che stavano ricorrendo in quel momento alla procreazione assistita, e ora ci troviamo con questo dramma umano. La biologia non è tutto, ha sottolineato la nostra mamma che ha chiamato da Genova, si chiamava Laura. Sentiremo anche voi tra poco, 800 24 0024. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Nove e 31 e buongiorno a coloro che si fossero uniti a noi da poco. Stiamo parlando e ci stiamo domandando, e stiamo parlando della questione degli embrioni e delle provette scambiate, ma soprattutto del futuro di questi bambini che non è ancora stato deciso. La capacità genitoriale, ci sottolineava un'ascoltatrice, madre adottiva a sua volta, non dipende dalla biologia necessariamente, dal DNA. Io sottoscrivo in pieno, ci sono migliaia di bambini nel mondo che hanno esistenze, bambini, individui, poi adulti, estremamente riuscite, soddisfacenti, rapporti bellissimi con i genitori adottivi, pur sapendo di essere stati adottati e senza alcun problema. La capacità genitoriale non riguarda nemmeno scelte di vita. C'è chi ha detto: tutti hanno diritto ad avere una madre, un padre. Ormai è un tema che abbiamo affrontato anche nelle puntate precedenti. La garanzia della madre e del padre non te la dà nessuno, nemmeno la coppia eterosessuale, e questo lo dicono le statistiche, nel senso che le separazioni e i divorzi madre e padre sotto lo stesso tetto ormai riguarda non una parte minoritaria, ancora la maggioranza della popolazione in Italia, ma le statistiche dimostrano, lo sanno bene gli insegnanti alle elementari, alle medie, ai licei, che devono concordare con i genitori e con le famiglie allargate anche gli orari in cui si vengono a prendere i bambini, le giornate in cui si vengono a prendere i bambini. Non sempre c'è la stessa coppia genitoriale quando si inizia la prima elementare o quando si arriva in prima liceo, questo è innegabile. La capacità genitoriale non ha nulla a che vedere nemmeno con l'orientamento sessuale di una persona, ci segnala qualcuno. E sottoscrivo anche questo, perché ho visto degli fantastici genitori convivere con partner dello stesso sesso. Questo non aveva nulla a che fare con quello che loro erano in grado o meno di fare, e ce lo hanno raccontato, è stato trasmesso anche da Radio 24, proprio i figli oggi adulti cresciuti da coppie dello stesso sesso. Ma al di là di tutte queste considerazioni, il patrimonio genetico deve dare il diritto alla coppia che si è vista il proprio embrione spiantato e impiantato su un'altra coppia ad avere i bambini dopo che sono nati, o invece deve prevalere il fatto che la gestazione, dunque la gravidanza, sia stata portata avanti da un'altra mamma e da un altro papà, e a loro deve andare la coppia di gemellini che nascerà? Silvia, pronto, buongiorno. Salve signora Zerbini, prima di tutto volevo farle complimenti perché è bravissima. Grazie, poi arriverò con l'assegno, Silvia, se mi lascia l'indirizzo naturalmente. Senta, lei cosa fa nella vita? Allora, io facevo il biochimico clinico quando abitavo a Milano, adesso sono 15 anni che vivo in Canada, per cui la mia vita è totalmente cambiata. E proprio essendo un biochimico clinico, ho lavorato sui trapianti di midollo osseo e le posso dire di problemi etici dove si facevano test, le posso fare, guardi, un esempio bellissimo. Avevamo questo ragazzo con la leucemia sola e aveva 7 fratelli, arriva dalla Calabria e noi eravamo sicuri al 100% che di avere un donatore genetico per questo ragazzo. Facciamo tutti i test genetici, non solo non era figlio di quel padre, ma anche i suoi fratelli avevano 4 padri differenti. Ma allora, questo forse è un caso limite, scusi, però, dottoressa? Questo è un caso limite, però voglio dire, i veri genitori di questo ragazzo, cioè il vero padre è quello che l'ha cresciuto, per cui nel caso di questi embrioni scambiati io penso che la coppia, capisco perfettamente, la coppia biologica che sente in questo momento intrappolata in questa situazione dovrebbe step back, cioè fare un passo indietro, lei dice, fare un passo indietro e lasciare questi due bambini alla madre che adesso è in gestazione. Questo è quello che penso, ma da madre emozionalmente, poi però posso capire tutti i problemi etici che ci stanno dietro, anche perché questa coppia biologica un giorno avrà altri figli e saranno i fratelli di questi ragazzi. E per questo qualcuno diceva almeno che abbiano un contatto nella vita, così che possano mantenere le relazioni con eventuali fratelli. Abbiamo sentito prima Boncinelli, è ancora con noi, dottoressa? Quindi lei ci sta dicendo che in base alle sue osservazioni, da un osservatorio particolare tra l'altro, perché mi pare di capire che la ricerca su un pool genetico compatibile per eventuali trapianti di midollo osseo porta spesso a interrogarsi su diverse questioni. Esatto. Lei adesso ha citato un caso forse limite, ma ce ne sono tantissimi, e poi io anche penso, cioè un giudice, e supponiamo che si tratti invece di una coppia normalissima, che però durante la gestazione va incontro a una separazione, sì. Il padre vuole il figlio, il giudice a chi lascia secondo lei il figlio? Alla madre? È un po', dico, qua ci stiamo parlando del 50%, capisce cosa intendo dire? Capisco benissimo. Quindi lei dice, nonostante il tormento, perché immagino, poi penso che lei sia una specialista di dolori, situazioni di angoscia, ansia, che in questo momento stanno vivendo queste due coppie. Immaginatevi in caso di ricerca di compatibilità per malattia leucemica del figlio, quindi ha avuto a che fare spesso con genitori disperati. E dal suo osservatorio ci dice Silvia, dovendo pronunciare una decisione difficile, la prevalenza ce l'abbia la gestazione, la madre che sta portando avanti la gravidanza. Francesco, buongiorno, pronto? Pronto? L'abbiamo perso, mentre Davide è ancora in linea, pronto? Salve, pronto? Buongiorno Davide, buon dica. Dì. Beh, mentre sentivo parlare la dottoressa che vive in Canada, sì, è vero, è un detto popolare quello che i figli sono di chi li cresce, sì. Però qui il punto è un po' diverso, qui non ce ne siamo accorti quando i ragazzi hanno festeggiato i 20 anni, certo. Qui ce ne accorgiamo prima e poi è un errore, non si tratta di chiamiamolo adulterio o tradimento. O scelte, insomma, di qualunque tipo, certo, come diciamo avviene così nell'adozione. Perfetto. Qui, quindi, qui poi è vero che le coppie che ricorrono alla fecondazione assistita forse devono tenere in conto anche queste eventualità, come se io un domani faccio un figlio c'è il rischio che venga scambiato il braccialetto in ospedale, insomma. È delicato qui, secondo me hanno i loro diritti i genitori, cioè e anche lei un medico, Davide, anche no, lei del campo. Ho studiato ingegneria, quindi non mi sento di dare né un giudizio giuridico né etico, anche se insomma. E perché la tocca questa vicenda? Perché no, ha chiamato? Mi tocca perché spesso vado a cena con carissimi amici, gente che stimo, che ha problemi di fertilità. Sì. E apro una parentesi, ci dovremmo chiedere come mai negli ultimi decenni si è impennata questa esponenziale. Beh, queste sono statistiche da verificare, hanno a che fare. No, vabbè, comunque. Sì, insomma, ha a che fare anche con l'età del primo parto della donna. Sì, è vero, si è spostata l'età, tutto quello, però è incredibile. Io non sono un under 40 e tra i 28 e i 40 anni ci sono tantissime coppie che hanno difficoltà a procreare nella maniera naturale. Ma lei, dovendo prendere questa decisione, Davide, venendo al punto, ha sentito, sì, diceva l'intervento precedente, la dottoressa diceva lo darei alla madre che sta portando avanti la gestazione. Adesso. E lei? Io stamattina ho appreso la notizia sentendo la vostra radio, non avevo letto sui giornali di questa notizia qui, e penso che ci sia stato un errore dell'infermiera e le due coppie dovrebbero dialogare. Io penso che devono decidere le due coppie dialogando. Dovrebbero decidere loro, ma in questo momento invece. E lì si comprende, c'è una situazione un po' difficile, ansiosa, anche di competitività in qualche modo. Però grazie per questo suggerimento, Davide. Certo, in un mondo ideale dovrebbero dialogare le coppie, professor Boncinelli. Ma ha ragione questo ascoltatore, cioè se i bambini avessero già 20 o 30 anni ci sarebbe un problema. Ma i bambini ancora non sono nati, quindi quello che potrebbe essere a vantaggio di una delle due coppie è solo che sono stati 9 mesi nella pancia della mamma, è un po' poco rispetto ad avere tutti i geni dei tanti genitori, quindi non vedo come i genitori, diciamo, acquisiti, tra virgolette, possano argomentare che il figlio è loro. Dal punto di vista umano, io capisco perché ci hanno riposto tanta speranza, ma dal punto di vista scientifico non si può dire, la genetica o la biologia non sono tutto. Certo non sono tutto, ma se non sono tutto da padre e figli, allora non tornano da nessuna parte, eliminiamole e buonanotte. Un suo collega, Alberto Piazza, un altro genetista del Dipartimento di Genetica all'Università di Torino, sostiene proprio l'opposto di quello che dice lei, perché dice dal DNA sono passati ai ricettori delle cellule, i geni, cioè nella placenta avvengono degli sviluppi fondamentali e si assorbono gli stimoli esterni, il patrimonio genetico di ognuno si esprime in un modo anziché in un altro proprio per la gestazione, quindi sottolinea quasi il primato della gestazione sul patrimonio genetico. Lei non è d'accordo, cosa risponde? Scienza e coscienza, ma certo se dovessi mettere sulla bilancia il fatto di avere gli stessi geni e il fatto di aver passato la gravidanza, secondo me c'è un rapporto di 1000 a 1, perché la gravidanza qualcosina ha fatto, ma praticamente trascurabile. E invece lei, professor Boncinelli, fa una differenza su una situazione ipotetica. In questo caso, nel caso si scoprisse di avere un figlio non geneticamente proprio, quando ormai ha passato del tempo con la famiglia, lo si è cresciuto, amato, accudito. Allora cambia. Questo è proprio un caso unico di cui ci si trova a parlare e molti invocano il benessere, penso che tutti lo vogliano perseguire, dei bambini e dei due gemelli che si trovano a nascere prima che degli adulti coinvolti. Il problema è chi lo può garantire meglio, questa tutela e questo ben esistere. Torniamo al nostro psicologo e psichiatra, professor Pietro Polli Charmel. Sono domande che si affollano anche negli sms che gli ascoltatori ci stanno inviando al 349-238-6666. Abbiamo sentito delle lance spezzate a favore di chi la gestazione la sta portando avanti, e dunque placenta, che deve avere la prevalenza perché nei primi 3 mesi della gravidanza si dà un imprinting in qualche modo all'essere umano, e chi dice no, il patrimonio genetico in caso di bambini ancora non nati deve avere la prevalenza. Intanto però chi può assicurare che questi gemelli avranno la migliore delle famiglie? La migliore delle famiglie, secondo giudizio di Re Salomone, riportato nei nostri libri, sì, sacri, è quella che sa rinunciare al proprio bisogno di maternità in vista del benessere del bambino. Se io fossi al posto del giudice che domani dovrà prendere posizione, ammesso che ci riesca, penso che terrei in gran conto questo aspetto. Se vedessi che c'è fra le due coppie una che è propensa a tirarsi indietro nell'esigere il rispetto dei propri diritti in vista del benessere del bambino e che capisse che il conflitto o la perpetuazione del conflitto, il trascinarsi nell'aula dei tribunali del problema del diritto, se conta di più il DNA, conta di più la placenta, la gestazione, conta di più il papà, conta di più la mamma, se uno capisce che questo non è nell'interesse del bambino, io penso che se vedo segnali di tirarsi indietro dal contenzioso in vista di un maggiore benessere del bambino, io penso che quella sia la coppia più adatta. Poi le variabili sono talmente tante che è veramente molto molto opinabile, molto difficile, però insomma è normale, ecco, che nei tribunali si discuta a chi affidare il bambino. E una torba di avvocati, di genitori se ne dicono di cotte e di crude. Poi in genere... Ma è molto delicata e anche intelligente. Tra l'altro, lei non è l'unico a segnalarcelo, anche molti ascoltatori ce lo dicono salomonicamente. La coppia che è disposta a fare il passo indietro probabilmente è la più adatta ad essere genitore. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. È vero che le adozioni e le famiglie affidatarie sono cose completamente diverse dalla vicenda che stiamo affrontando, ce lo dice Lorenzo da Milano, è vero, però vista l'unicità della cosa, è chiaro che ci sono stati degli accostamenti da parte di alcuni dei nostri ascoltatori, accostamenti anche che sono serviti a segnalare le differenze. Mi piace questa sottolineatura di Pietro Polli Charmé. Lui dice, psicologo e psichiatra, io fossi il giudice starei a guardare, a cogliere quali delle due coppie sarebbe disposta, per il benessere dei bimbi che ancora non sono nati, a mettere fine al conflitto, così che possano iniziare la loro esistenza serenamente, possano avere meno titoli sui giornali possibile, possano... Ecco, quella coppia disposta a rinunciare probabilmente sarebbe la più adatta anche ad avere i bambini. Luigi, buongiorno. Pronto? Pronto? No. Buongiorno, dica Luigi, innanzitutto da dove chiama? Viterbo, provincia di Viterbo. Dica. Io ho fatto un'osservazione prima, cioè qui state parlando di una cosa che non appartiene, stanno litigando su un possesso, su una proprietà che non appartiene a nessuna delle coppie. Uno, due, se il giudice dà ragione alla madre genetica, si apre in Italia un altro capitolo che nessuno ha ancora aperto, l'utero in affitto. Cioè qui si sta combattendo con la vita. E noi, io e mia moglie, insomma, abbiamo avuto dei problemi per fare il secondo figlio, abbiamo fatto un'adozione, abbiamo fatto una scelta già anni fa, non abbiamo voluto combattere con questi intrugli, con tutte queste tecniche già esistevano all'epoca. Cioè voi avevate già un figlio naturale, poi sì. Avete adottato Luigi e sì. Credo sia un atto di estrema stima, però non giudichiamo per favore le persone che decidono altre strade, non siamo qui a fare il processo alle intenzioni nella vita privata degli altri. Buon per noi se facciamo delle scelte, non per questo la nostra scelta ci dà il diritto di giudicare chi invece sceglie altre strade che non sono certo intrugli, ormai sono garantite dalla medicina. Tantissime coppie in Italia e non solo hanno avuto figli grazie all'inseminazione artificiale, possiamo noi giudicare il loro desiderio. In questo caso lei ha fatto un'osservazione molto importante sulla proprietà. Non appartengono i figli, si può parlare di desiderio di genitorialità, ma parlare di proprietà è molto brutto. Io credo che siano soprattutto delle semplificazioni giornalistiche quando si dice la coppia genetica dice che i bambini che nasceranno appartengono a loro. Sono forse delle semplificazioni, perché noi in realtà queste persone coinvolte in questo dramma non le abbiamo mai sentite, abbiamo sempre sentito riportato da altri ciò che loro avrebbero detto o affermato. Nel corso della trasmissione, tra l'altro, qualcuno ha parlato del rischio della fecondazione, nel senso c'è anche acquisto, no? La possibilità che si scambi la provetta. Ora sono immagini, bisogna dire, piuttosto fantascientifiche, fino a che poi in Italia accade, quindi devi fare tu un passo indietro sull'aggettivo. C'è la possibilità, ha detto qualcuno, al nostro microfono, al nostro telefono, anche che ci si scambi dei braccialetti alla nascita. Forse il riferimento era un'altra di queste ipotesi che riempiono i romanzi, o forse no. Intanto saluto e ringrazio l'avvocato Nicola Sammaritano. Buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. L'avvocato Nicola Sammaritano, innanzitutto, da dove chiama? Marsala. Da Marsala, in Sicilia. Sì. E c'è stata una vicenda. Io rappresento le famiglie di Mazara del Vallo che sono state vittime dello scambio di neonate 15 anni fa, giusto? Prego? 15 anni fa. Circa 15 anni fa, e francamente da cittadino. Ma vogliamo, prima di emettere giudizi su quest'ultima vicenda, raccontare qualcosa che ha dell'incredibile, che si è risolto in una maniera estremamente improbabile ma molto civile. Cioè, cos'era successo? Questi genitori, una famiglia con un papà muratore e un papà pescatore, vivevano a Mazara del Vallo con le loro bambine che andavano a prendere all'asilo. A un certo punto, unico asilo del posto, succedeva che la maestra, senza volerlo, portasse sempre fuori, quando il padre si presentava a ritirare la bambina, un'altra bambina, cioè la bambina sbagliata, la figlia di qualcun altro. E un giorno questa maestra dice a questo genitore, che si chiede come mai con questa frequenza mi portate questa bimba, è perché è una goccia d'acqua, le assomiglia molto. E allora di colpo, ha raccontato anche la nonna ai giornali, ci si è ricordati di un episodio, cioè del fatto che all'uscita dall'ospedale le bambine non avevano i vestitini, il corredino che le mamme avevano portato, ma l'infermiera aveva detto abbiamo solo scambiato i vestitini. E poi cosa è successo, avvocato? Sostanzialmente la vicenda si svolge nei termini che lei ha esplicitato, però la vicenda trae origine dalla indolenza, dalla sciatteria del personale sanitario dell'ospedale, indolenza e sciatteria che si ripete per il caso oggi sul campo degli embrioni, perché in quella struttura non si utilizzavano materialmente braccialetti di riconoscimento. Allora, dopo 3 anni e mezzo dalla nascita, a seguito di questa vicenda, di questo incontro presso l'asilo di Mazara del Vallo, un terremoto psicologico, uno sconcasso psicologico ricade su 2 bambine, su 4 genitori, su 2 nonni e su 2 zii. Perché dopo 3 anni e mezzo scoprire che quella che tu hai cresciuto, hai allattato al seno, hai tenuto per mano, cui hai inculcato il tuo modus educandi, il tuo modus vivendi, non è tua figlia, ti crea doverosamente un terremoto, uno sconquasso psicologico. Le bambine avevano, le famiglie, un'identità personale, familiare e sociale. Ma hanno fatto una scelta di grandissima civiltà. Ma guardi, la vuole raccontare intanto, perché al di là degli esiti, poi ogni famiglia e ogni adolescente, oggi sono adolescente, ha la propria psicologia, ma cosa hanno deciso queste famiglie una volta messe davanti a un terremoto, come l'ha definito lei, di questo tipo? Cosa hanno fatto? Ma è chiaro che ci siamo raccordati con gli organi giudiziari, con il Tribunale dei Minori di Palermo, poi abbiamo chiesto suggerimenti, anche perché non c'erano dei precedenti, all'indimenticato professor Giovanni Bollea e alla dottoressa Sellepoi, che tuttora, Vera Sellepoi, che tuttora ci segue. Abbiamo cercato di anteporre le esigenze delle bambine e dei figli a qualunque altra esigenza. Ma di fatto le famiglie si sono fisicamente avvicinate. Sì, certamente, certamente, però posso dire purtroppo che il processo di identificazione, diciamo, tra questi genitori e le figlie non è sostanzialmente, a distanza di 15 anni, probabilmente non lo sarà mai, mi auguro di sbagliare, non è completo, soprattutto nel rapporto tra una mamma e una bambina. Perché questi genitori vivono dei sentimenti contrastanti, la gioia, la felicità per l'acquisizione della propria figlia e del proprio io, ma loro si qualificano anche come lutto, come abbandono, il distacco da quella bambina che per 3 anni e mezzo hanno cresciuto, che era la loro figlia. Quindi ognuna delle famiglie ha ripreso sotto lo stesso tetto la figlia genetica, è questo che ci sta raccontando, avvocato? Anche perché però vivono vicino, le bambine sono amiche del cuore e le adolescenti hanno, ora adolescenti, ma nel corso corso della propria vita, hanno avuto contatti con tutti e quattro i genitori? Esattamente sì, una sorta di fusione, di procedimento di fusione allargata, anche per assicurare il minor trauma possibile alle bambine. Però purtroppo l'aspetto oggi possiamo dire negativo è quello del rapporto tra una mamma e una bambina, che è una bambina ormai ragazza, che non riescono, diciamo, a identificarsi come mamma e come figlia. Nonostante il corredo genetico sia lo stesso. Esattamente. Beh, è chiaro, ogni vicenda ha le sue caratteristiche, sviluppi e elementi peculiari, quindi questo, lungi dal poter farci trarre delle conclusioni sulla vicenda invece dello scambio di embrioni. Lei, che ha vissuto da vicino, affiancato da questi grandissimi della psicologia dell'età evolutiva che lei ha citato, Bollea e l'altra psicologa, che idea si è fatto di quest'ultimo caso di sciatteria, come l'ha definito, del personale sanitario? Cosa dovrebbe fare un giudice di fronte a una scelta di questo tipo? No, no, guardi, io per mia indole non mi sento di entrare in vicende giuridiche altrui che non conosco. La mia opinione personale, ripeto, da cittadino sono indignato ancora una volta per l'errore che si crea di fronte ad una vicenda. Lei pensi che nella nostra struttura 14 anni or sono non si utilizzavano i braccialetti di riconoscimento? E avendo seguito l'istruttoria, le dico qualcosa di molto grave, di molto brutto. Io penso e mi auguro di sbagliare, che chissà quante altre situazioni tali nascoste siano in essere. Beh, ce l'ha spiegato anche una dottoressa che è intervenuta prima come ascoltatrice. Scoprire, quando si cerca la compatibilità per un trapianto, che spesso il patrimonio genetico del figlio non è uguale a quella del fratello, per esempio, o a quello dei genitori. Ce ne parlava come non fosse un caso, come non fosse un caso unico e sporadico. Dica, ma siamo in conclusione, avvocato, concluda. Un suggerimento che posso dare, dico, a questi quattro genitori, li considero tali, cerchino di guardare questi figli con occhi positivi, con il proprio essere, con il proprio io. Non voglio aggiungere altro, ecco. Molto umana, e quando ci saranno momenti di difficoltà, attenzione, li avresti avuti anche con un bambino partorito nella maniera, diciamo così, concepito nella maniera tradizionale. Questo è quello che ci suggerite anche voi con i vostri sms. Grazie per aver partecipato fino a questo punto, essere arrivati fin qui. Ringraziamo gli autori della trasmissione: Anita Panizza dall'altra parte del vetro, Barbara Bianchi, Luca Cremonese, Alessandro Casali, e con loro il regista, non hai registrato nulla, giusto Carmelo? Sei il regista, Carmelo Lauricella. Irene Zerbini vi dà appuntamento con Spunti di Vista a domani mattina alle 8:15. Buona giornata. Spunti di Vista, i mille aspetti dell'attualità.